che c'ha più spinta, capito? Sì, no, facciamo, se gli va bene, insomma, tanto è nuovo, non si può dire che neanche usato. Non ho messo la scatola, come era, non già la fa, se non volevo, allora sei, quello che ho comprato nuovo, è nuovo, non ci sono problemi. Cappa del rosmetro, vai Anto, Anto vai, attenti a Giuseppe che fa sende, col furgone. Cappa, è bene fitti così, dai soldi. Lasci che magari sulla sua timbrica vada più che bene e si abbini molto molto di più, capito? Ho parlato con Muro. No, no, già da gentile, c'è una faccenda con la sigaretta. Giorgio! L'antenna quella che avevo piazzato nella macchina, capito? Ah, e quindi adesso anche le macchine non le hai? Sono quella nera e quella che avevo prima, capito? E non ci esce bene quella lì? Ah? Ci esce bene? Beh, c'è il palo da 3 metri e mezzo, beh, è questo palo. Vabbè, anche lì, fino a vedere un po' se si può fare qualche altro lavoro. Qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso. Che? Neanche da Bosnia. E vabbè, andiamo a vedere, si può mettere qualche antenna diversa. Sì, ma Antonello, c'ha un'antenna che l'ho dato io, hai capito? Era per il VHS, quell'antenna lì, e l'ho detto trasformala al 27, modificala al 27, quella al 27, quando me l'ha modificata me l'ha piaciuto lì, capito? Sì, ma fammi capire, ma lì c'è il posto per mettere una mini Grand Prix, una boomerang, qualcosa? Una Grand Prix è meglio. Ma ci può mettere, c'è il posto per mettere una mini Grand Prix, una Grand Prix di quelle piccoline, non grandi grandi. Che ci può mettere, però c'ho il muro, dove io all'ultimo piano, c'ho il muro, tipo il muro, nella camera dove c'è questo muro tipo scivolo, e io ce l'ho piazzata lì adesso, questo palo qua, capito, attaccato al muro, senza stampa, senza niente. No, bisogna mettere strappe, Giuseppe, il muro c'è per forza, ma sennò bisogna che venga a vederlo, come lo spiegate bene, perché in base a quello che si può montare si piglia un'antenna, traguparemo questo gatto, l'antenna si piazza. Aspetta, mi sta scendendo la chiglina in terra. Se mi fa quella cosa là, di certo quell'antenna sta modificando e... è un altro palo, li smetto, poi, grazie. Guarda, ti stacchiamo lo sanno. Lo fa lì, hai capito? Quando hanno costruito questa casa, questo palazzo. Devi fare l'apertura su, a cedere su al tetto, capito? Radio, ti sta chiamando Sandro. Ehi, no, stavo per portarci, dimmi sa. Sì, Giuseppe, ci ho capito, sì, dimmi sa. Ascolta, ti ricordi quell'affare che mi hai dato? Se bruciato è un fusibile. Va bene se li metto un pezzo di chiudi ferro? Hai provato se è bruciato un fusibile. E quell'affare che mi hai dato? Si è bruciato un fusibile. No, perché ti dà quanto è il fusibile? È grosso, è quello del positivo. Siccome ne ha due, positivo e negativo, quello positivo si è bruciato. E stavo pensando a mettergli un pezzo di ferro. No, guarda, lì ci vuole il fusibile da 25 ampere, e quello è un 50 watt. Quindi non va bene. 25 ampere. Io ce li ho, se è stato San Giovanni, vi vedete, prendevi. Ho capito. però stavo pensando a un pezzo di ferro di quello grosso. Sa, rischi, fin di ferro grosso no, semmai prendi un cavo di quello che c'ha il centrale rigido, il rame, e glielo saldi da una parte dall'altra. Dai, che stavo scherzando col fil di ferro, già ho capito, dai, prendo di quello, un paio di quei filini di rame, di un pezzo di filo, gli risalgo sopra, adesso poi domani glieli prendo. Ma no, fine, fallo un pochettino grosso, perché da 25 ampere, guarda il filamento che c'è interno, lo fai uguale, perché 25 ampere è fusibile, è un 50 watt, guarda. Sì, va bene, anche. Poi domani o passi da Pugiaro, o anche lì a Porto Torres da Branca, o alla Elco, e te li fai dare. Ce li hanno, c'hanno quelle scatolettine da 10 fusibili, capito, 25 ampere, da 25 ampere. Ho capito, e io ce li procuro, se no a Sassari lo stesso procuro. Piuttosto mi serve una risposta urgente da Mauro. Cosa ha detto Sandro, Mauro? Ha detto che vuole una risposta urgente da Mauro. Urgente da Mauro. Ne ho parlato. Adesso se ci vediamo domani mattina, vedo un po', detto che chiede comunque, detto che chiedeva lì nella zona sua. Perché sennò io adesso mi devo muovere, capito? Ma ci stanno i fiumi, dove a muoverti? Poi, tutto quello che viene in più. Riprendete che mi assento un attimino. C'è almeno uno di Cirubi di Tricaballacche, piccolino. Ehi, dai, un paio già te li metto da parte, dai. Ma un paio, però, mi sono due un paio, mi. Non mettere la trabuccia, no? Ehi, dai, io entro la mano, ti do la buccia, entro la mano, se la puoi sotto a 4, cosa hai fatto? Aggiungerò tutto. Chiappa, va bene. Fai quello che devi fare, dai. Riprenditi a tu. E così. Chiappa. Bisogna caricare, non ci andiamo oggi a caricare. Certo, sono le 8:15. Positivo, e io mi fra 5-6 minuti massimo vado a carico. Io quando vuoi, non c'è problema. Non sei. Io sono qua, io tra un po' faccio carica e sentiamo dopo. Claudio, ti volevo dire una cosa, vabbè, la dico verticale. Non mi piace dirlo al barattino fuori a dove commerciale. Gatta. Per carità. Domani giusto alzarmene presto per andare a fare una visita ospedale, per carità, non ne ho voglia. Vabbè. Un attimino di bianco per me, 2 minuti. Anch'io un attimo di acqua, carico e si cucina a più tardi. Ok? E a dopo, tu vai, bianco anche per me, ci sei. Via. Come? Domenico e domenico. Antonio, me l'ho sbagliato io, là. Antonio. Ma che? Il panchetto. Ehi, dimmi. Ma vorrei che lo chieda a te. Volevo chiedere. Non mi ricordo più. Vabbè. Apra bene, io vado a caricare. Sì, buona carica, buon tutto, dai. Sentiamo dopo, dai. Buona carica, grazie. Ciao, marracchino, No, butta giù le montagne, butta giù le montagne, se no non ti accoppio. Già a Montecurvo, alla fine della Valletta, là. No, vabbè. io ti ascolto bene, non c'è problema. Con questo sto un po' perdendo a Domenico. Domenico, ci sei ancora? Metti un colpo. Ah, ti ascolto adesso perfettamente, radio, ho avuto un po' calo poco fa, io ti ascolto bene. A me c'è qualche punto un pochettino più favorevole e altri meno favorevoli. E via. Come Bezeuda di Sargosa, cambio apparato perché sono troppo distante l'altoparlante e non si comprende nulla, sento la voce distorta. Prendo l'altro apparato che c'è l'altoparlante in esterno che sento meglio, dai. Siamo? Via Roberto, ci siamo. Questo spinge un po' di più probabilmente, ti ascolta anche meglio perché c'ho, a parte l'apparato diverso, c'è il coso, il micro l'altoparlante esterno più fedele. Quella era una colonnina piccolina, manco, mamma mia, ti dà solo fastidio alle orecchie. Anche il segnale sicuramente cambia. E amplifica un bel quello, li vuole regolato al minimo, perché sennò gli sto, ce l'avevo fatta. Vedremo, provare io a pensare, farmi tutte le regolazioni a, come si chiama, con l'altro apparato, me ne vado a bassa potenza, tanto è regolabile la potenza, c'è di buono che c'ha la regolazione di potenza e basta. Poi adesso uno di questi giorni faccio camminare di nuovo il vecchio Pace, che col tanne quello è un bel giocattolo. Adesso ti sto ascoltando in mezzo al QRM, comunque. Queste voci che sentite sono le bambine che si stanno mezzo afferrando, non so se le sentite. Io direi di far sentire un attimino a Domenico se mi ascolta ancora e poi facciamo girare a Giuseppe. Avanti Domenico. Sì, Santiago 5, sei radio però ti do 2-3, è un po' disturbata, dai. Vediamo Giuseppe se c'è ancora o è scappato. Avanti Giuseppe. Leoncino, avanti. Leoncino, mai guidato ne hai, Domenico? Domenico, tutti muti, ci sei ancora Domenico? Se stai parlando ti sento proprio impercettibile, non riesco a capire quello che stai dicendo. Comunque ti saluto Domenico, buon viaggio, buon tutto e buona giornata per domani, ciao ciao, se mi hai copiato. Ok, attenzione canale 10, chi vuole entrare, avanti con la buonasera.